sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Tutti avevano capito che si trattava di un animale ormai alla fame. Di andarlo a prendere era fuori discussione. Già era pericoloso starsene in trincea, figurarsi uscirne. Ciao, sono Corrado, ho 59 anni, sono di Torino e vivo a Brescia. Sono felicemente sposato, mi occupo di terapie olistiche, amo camminare a lungo e mi piace un sacco il mare e la vela, benché non sia mai riuscito ad andarci. Erano due le storie che mio nonno mi raccontava quasi ossessivamente sulla guerra. Lui era stato in Libia ed era tornato poi fortunosamente per una ferita abbastanza lieve alla mano che gli aveva fatto rientrare a casa anticipatamente, però si era fatto 3 anni di Libia. Una era una storia che riguardava una sigaretta che lui voleva accendersi a tutti i costi. Ero da solo nel deserto, non c'era un posto dove accendere questo maledetto fiammifero, avevo una sigaretta e un fiammifero, sotto le scarpe niente, addosso niente, solo sabbia. A un certo punto sento il rombo di un motore, mi giro, vedo questo aereo che arriva ed è bassissimo, io mi butto a terra, l'aereo è talmente basso che io alzo la mano, gratto sulla pancia dell'aereo il cerino e mi accendo la sigaretta. Questa era la prima storia che lui mi raccontava, che era chiaramente una boutade. L'altra invece era una storia che è legata alla storia che raccontiamo oggi, a quella di Corrado e di suo nonno. Loro stanno ritirando, credo, quindi stanno muovendosi indietro con tutte le truppe. A un certo punto non mangiano da parecchi giorni, che nella memoria erano una volta 2, una volta 3, una volta 7, una volta 15, e trovano dei carri tedeschi abbandonati, dei camion tedeschi abbandonati che sono pieni di mostarda. Sapete la mostarda, quella non so come si fa il processo per fare la mostarda, però sono, è la frutta dolce ma molto piccante. Loro hanno talmente fame che la mangiano tutta in un paio d'ore, ne passano altre 2 e tutti sono devastati dalla dissenteria. Il racconto era molto più carico, ovviamente andava molto più nel dettaglio. Vi racconto questa storia perché la storia che Corrado racconta relativa a suo nonno ha esattamente lo stesso tenore, cioè i nonni che raccontavano storie di guerra, ma quelle storie erano comunque quasi sempre divertenti, il tentativo era quello di intrattenere e divertire le persone di fronte e in particolar modo i nipoti. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma è Voi Siete Qui. Raccontiamo ogni giorno una storia che racconti qualche cosa di voi. Stiamo creando una grande mappa in questi anni di diretta, di messa in onda, questa è la 4ª stagione, è una mappa che non parla di numeri ma parla di storie e di persone. Prima di raccontare la storia di oggi però vi ricordo, come vi ho già detto ieri, che sono aperte le iscrizioni per il live che faremo alla Pirelli il 25 di novembre. Quindi se siete dalle parti del Pirelli Store, che si trova in corso di Porta Venezia 1, quindi nel super centro di Milano, proprio vicino a Piazza San Babila, e avete voglia di venirvi a sentire una storia raccontata in diretta dal vivo, ci saranno tu, Miriam non credo ci sarà, Miriam ci sarai tu, forse c'è anche Miriam, attenzione, Paolino tu ci sei, c'è Paolo, c'è Tiziano ovviamente, quindi c'è tutta la squadra di Voi Siete Qui, ma soprattutto c'è un grande ritorno. Parlo di storie ovviamente da raccontare, per chi se lo ricorda Massimo Nerriotti, per tutti quanti l'uomo di Scagnolari, ci ha inviato una storia che parla di motociclette e che racconteremo quindi martedì 25 novembre dal vivo, vi ricordo, corso di Porta Venezia 1 a Milano. Per venire vi iscrivete attraverso il sito, banalmente andato sulla nostra pagina Voi Siete Qui Radio 24, eccolo qua Pirelli, clac, cliccate sopra, compilate il form e venite a gustarvi, spero, questa mezz'oretta di programma alle 16 come al solito, ripeto, il 25 di novembre. 349-238-6666. La puntata di oggi ha un tema, diciamo, che non è così usuale ed è: che cosa avete fatto guidati dalla fame? Non so se è mai capitato, fortunatamente la nostra generazione da anni ormai non è una generazione che patisce la fame in questa parte del mondo, in questa parte dell'Italia. Se però vi è mai capitato, ad esempio Carlo sul profilo Facebook del programma ci ha scritto: ero in Interrail, mangiavamo tonno e grissini da 4 giorni. Ecco, è quel tipo di fame lì più o meno. Una sera entrai in un supermercato e chiesi ad una signora di comprarmi una pizza surgelata, in cambio le ballai la macarena alla cassa per 5 minuti di fila, rise molto e mi comprò quella pizza. 349-238-6666. Non c'è da ballare, ma nonostante fosse in guerra, la storia del nonno di Corrado comunque c'è da ridere. Nonu, ten conti cula del crin? Nonno, mi racconti quella del maiale? Questa domanda la feci non so quante volte a mio nonno paterno, da tutti chiamato Parotu, Papalino o Paparino, perché lui mi raccontasse di quella volta che andarono a raccattare un maiale rimasto non si sa bene come nella terra di nessuno fra le trincee nemiche. Pazientemente, ogni volta, lui iniziava a raccontare come da qualche giorno sentivano dei versi venire da un gruppo di rovine proprio lì, in mezzo, e ormai tutti avevano capito che si trattava di un animale ormai alla fame da chissà quanto tempo. Di andarlo a prendere con l'unico scopo di riempirsi la pancia era fuori discussione. Già era pericoloso starsene in trincea, figuriamoci uscirne. Ma questo nonno non me lo disse mai. Mi raccontò semplicemente che assieme ad altri decisero che la fame era troppa e quindi uscirono di notte, in silenzio, e andarono strisciando in quella baracca. A questo punto io stavo già ridendo, immaginando mio nonno, a quell'epoca ormai ben panciuto, strisciare per terra di notte. Sì, per me era buffo, e lui faceva di tutto perché lo fosse, imitando gesti e rumori. Di mio nonno mi ricordo che era un omone, era grande, io lo vedevo grande, ero piccolo io probabilmente, e aveva una camminata tutta sua, quasi indietro, con le spalle indietro, col petto in avanti, con uno sguardo bellissimo. Mio nonno per me è una figura quasi magica. Arrivati a queste rovine trovarono un maiale che, affamato e spaventatissimo, urlava come solo i maiali sanno fare. Certamente non potevano sparargli, perché gli austriaci li avrebbero sentiti. Non potevano tirarlo, perché urlava. Allora venne presa la decisione di far tornare uno di loro a prendere un pezzo di sapone. E qui io, che sapevo già la storia, ridevo oramai a crepapelle ad immaginare un maiale che mastica una saponetta. E in effetti così fecero. E ficcando a più riprese pezzi di sapone in bocca al maiale, masticando, fece pasta. E avendo qualcosa tra le fauci che non riusciva a deglutire, in qualche modo si zittì. E così riuscirono a trascinarlo nella loro trincea, dove fece la fine che tutti speravano. Mio nonno morì il 28 dicembre 1965, quando io avevo 10 anni. Una delle tante vittime della silicosi provocata dall'esposizione agli altiforni a cui faceva manutenzione. Ho vissuto con lui pochi anni, ma lo ricordo molto bene, e ricostruendo da adulto questo racconto posso leggere altro: fame, sporcizia, fango, pericolo, tutte cose che saltano fuori tra le righe dal racconto di nonno. You got me singing, even though the news is bad. You got me singing, the only song I ever had. You got me singing ever since the river died. You got me thinking of the places we could hide. You got me singing, even though the world is gone. You got me thinking, to carry on. You got me singing, even though it all looks grim. You got me singing, a hallelujah hymn. You got me singing, like a prisoner in a jail. You got me singing, like my pardon's in the mail. You got me wishing, wishing our little love would last. You got me thinking like those people of the past. Una squadra che esce dalla trincea e si avventura nella terra di nessuno. Uno di loro che torna indietro e ancora ripercorre la strada per portare il sapone. E poi tutti insieme, con il maiale, che si riavviano per portare finalmente qualche cosa da mangiare che fosse diverso dal solito riso bollito. Sì, decisamente una visione divertente per me all'epoca. Nonno non mi raccontò mai di che cosa vide però in quelle trincee. Mi raccontò solo di un maiale con il sapone in bocca. Nonno fu di quelli di Caporetto, Cosa successe in quei frangenti nessuno in famiglia lo seppe mai. L'unica altra cosa che ci raccontò fu il motivo per cui si vinse quella guerra. E secondo lui fu solo perché gli italiani erano più abituati a fare la fame degli altri. Io penso che mio nonno raccontasse poco della guerra e di quello che lui in realtà ha potuto vedere. Probabilmente non raccontava nulla o per pudore o perché era troppo duro quello che aveva visto o perché nei miei confronti io ero un bambino e quindi magari si tratteneva da raccontare di cose brutte. Io non gli ho mai sentito parlare di morte. L'altra cosa che ricordo di nonno è il suo perentorio rifiuto di fare domanda per il cavalierato di Vittorio Veneto, quello che venne dato ai sopravvissuti. Rifiutò perché disse: quando mi hanno mandato la cartolina hanno trovato l'indirizzo. Se vogliono farmi cavaliere possono fare lo stesso, non sono io che devo chiedere. Nonno è nato nel 1887 e si è fatto tutta la guerra nel genio. Non sappiamo che tipo di genio. Sappiamo solo dai pochi racconti, quelli che fece a sua moglie, che veniva spesso mandato a stendere i reticolati. C'è una foto di mio nonno di quegli anni che per me resta emblematica. Certo, è una posa costruita tra lui e i commilitoni, ma il legame che si creava fra quegli uomini per stravolgere tutta la loro sbandierata virilità, che deborda dalla mano sui fianchi in questa foto, o sulle spalle, e da quel piede in avanti, con quella mano stretta fra loro due, che sappiamo per sue parole essere uno stimato compagno di armi. Ecco, più che amici, più che fratelli, questa foto per me rimane simbolo di un legame che ha superato ogni bassezza umana e che può permetterti di vivere soltanto attraverso una unione profondissima fra esseri umani. Il racconto che vi ho riportato è solo nella mia memoria e in quella di mio fratello. Noi siamo gli unici testimoni ormai di quelle cose. Non sappiamo dove si svolse né in che anno. Allora a me non importava, quella era solo una storia che mi faceva ridere. From the Phoenix lift off, somewhere over Blackfoot Reserve, high above Drumheller, sky hostess starts to serve, cloud shadows on the mountain, and our shadow on the mountainside. After Salt Lake City, I have time to close my eyes before the Grand Canyon swallows us as we move south. I pray the Grand Canyon take our plane inside its mouth. Uno sguardo molto fiero Corrado nella foto che ci ha mandato, sembra su una barca quasi, nel senso che ha lo sguardo di chi di solito in barca o in montagna guarda un punto che è più in là di dove si guarda di solito per la strada o una persona di fronte, si guarda verso l'orizzonte, c'è un cielo grigio dietro di lui e lui è appunto lo sguardo di chi guarda molto avanti. Pronto Corrado, buongiorno. Buongiorno Matteo. Come stai? Sentirti. Anche per me. Dove sei nella foto che ci hai mandato? Guarda, sono su una barca. Ah, ok, allora. No, al mare sono sulla barca. La sensazione era quella. E sei al timone di una barca, immagino. Sono al timone, per la prima volta nella mia vita ero al timone di una barca, sì. Ah, quindi non sei. Però hai lo sguardo da marinaio esperto, nonostante tutto, eh? Ma ti ringrazio, ma non lo sono affatto. Proprio no. Corrado, senti, diamo un po' di coordinate temporali. Il nonno Parotu, che scusami, innanzitutto, Parotu. Il dialetto è Piemontese, ovviamente. Tu sei, scusami, non ricordo, sei torinese o sei? Sono torinese. Sei torinese. Sì, non abito più a Torino, ma sono torinese. Ok. Ti dicevo, diamo un po' di tempi. Il tuo nonno non c'è più da quanti anni ormai? È morto poi, io ne ho se da 55 anni mancato, perché e... nel 65. Nel 65, eccolo qua, giusto. Quindi infatti. Sì. Sì, e quindi sono 10 anni all'epoca. Però è un ricordo molto vivido di lui. È un ricordo vivissimo, vivissimo, come se ce l'avessi qui oggi. Sono legatissimo con l'uomo. Guarda, tra l'altro, veramente una cosa... lo dicevo in apertura, è una cosa che condivido molto con te, perché mio nonno, che ha fatto la seconda guerra mondiale, ovviamente non la prima, è mancato quando io avevo 10 anni, e ricordo esattamente la stessa cosa, che mi faceva dei racconti di guerra che per me erano divertenti, perché lui li raccontava in maniera divertente, e questa cosa probabilmente è una cosa, diciamo, comune. No, nel senso che lui tendeva a farti allegria, a farti divertire con queste storie. Sì, sempre positivo, comunque sempre positivo. In tutte le cose che mi raccontava, che mi ha raccontato della guerra che ha fatto, non c'era mai un ferito, non c'era mai un morto, non c'era mai una roba brutta. Sempre cose belle, sempre cose allegre, se non altro, no? Cioè, della serie. Per lui il riso, che non ha mai più voluto mangiare, gli diceva il riso ci caricava un fucile. Cioè, erano sciocche, però mai una cosa negativa, mai. E di Caporetto avete saputo qualcosa tramite magari tua nonna, o proprio non ha mai raccontato nulla? No, guarda, l'unico cosa relativa a Caporetto era l'epiteto che dava a Cadorna, che non è ripetibile in radio, ma è l'unica cosa, è l'unica cosa di cui lui parlava con noi di Caporetto, rivolgendosi a quel generale con quell'epiteto non molto, insomma, certo. Molto piacevole. Chiaro. Invece c'è un pezzo in cui tu citi proprio le sue parole, no? che è magnifico, che tra l'altro non è difficile immaginare in bocca e sulla faccia di un uomo di quest'epoca, no? Quando dice: quando hanno voluto trovarmi per mandarmi in militare, l'hanno trovato l'indirizzo. Adesso, se vogliono, per il cavalierato me lo mandano. Non sono io che devo chiedere. Non sono io che devo chiedere. Ora mi viene ancora la pelle d'oca a pensare a quella cosa lì, perché ci caspita, mai possibile, tutta quella gente lì che avete chiamato, che avete mandato da un baraglio, che gli avete fatto di ogni sorta di violenza fisica e psichica, adesso se vuoi un riconoscimento me lo devi chiedere. Che cosa ha fatto poi tuo nonno nella vita? Nella vita lui era muratore. È stato muratore. Quando l'ho conosciuto io, da quando mi ricordo io, era oramai in pensione, quindi non lavorava più. Certo. L'unica cosa di muratura che ha fatto lo fece a casa nostra, rifacendo il forno della stufa a legno, perché lui era bravissimo, era specializzato nella terra refrattaria, negli altoforni, quelle robe lì, certo. Lavorava il refrattario. L'unica cosa che mi ha visto fare, perché insomma quell'età lì e quell'epoca chiaro. I suoi anni in pensione. E Corrado, tu sei nonno per caso? Magari vorrei tanto, ma non si sbrigano. No, non lo so. Sembra di sentire i miei genitori. Non lo sono ancora. Tutti i genitori vorrebbero diventare nonni prima o poi. Sì, a un certo punto, a un certo punto devo dire, i miei non l'hanno mai ammesso, però a un certo punto glielo vedi proprio negli occhi. Infatti, devo dire che per questo ringrazio mia sorella, che si è portata avanti, e tra credo qualche settimana farò loro questo regalo. Sfornerà. Esatto, sfornerà, così almeno temporeggiano un po', insomma, cominciano a occuparsi a occuparsi di lei. Corrado, io ti ringrazio davvero per la storia che ci hai raccontato, e anche per l'immagine di questo uomo che in qualche modo ci piace immaginare rappresenti un po' gli uomini di quell'epoca lì. Sì, assolutamente, a cui io devo tanto. Ti ringrazio anche te tantissimo. In bocca al lupo. Ciao Corrado, grazie ancora. Ciao, grazie. Ciao. Alla fine della storia di Corrado ho capito che, primo, in alcuni dialetti maiale si dice crin. Secondo, riuscire a fare ridere raccontando la storia di guerra è una qualità incredibile. Terzo, i nonni con storie come queste ormai quasi non ci sono più. Quarto, come dicevo prima, la frase del nonno che dice "non sono io che devo chiedere la medaglia" appartiene chiaramente ad un'altra epoca. E quinto, rischiare la vita per via del cibo è come dire che si ha veramente una gran voglia di vivere. E ovviamente i racconti come questi fanno scatenare, scatenano la memoria di tutti quelli che hanno avuto un papà o un nonno, come nel caso di Corrado, come nel mio, come quelli appunto, come ho già avuto modo di dire, della mia generazione, che quei nonni che hanno fatto la guerra ce l'hanno avuti. Edoardo, mio nonno per la fame raggiunse da ragazzino in tempo di guerra a piedi una drogheria in città. Dopo 4 ore di cammino raccontò la storia della sua famiglia, lunga e strappalacrime e in parte inventata. E dopo quel racconto di mezz'ora il droghiere e i presenti gli regalarono pane, latte, riso e farina. 349-238-6666, che poi in realtà in questi racconti di solito gli elementi, no, cambiano di volta in volta. Magari erano pane, latte, riso e farina, una volta invece era pasta e grano, un'altra volta ancora era, che so, detersivo e sapone. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi. Grazie ovviamente a Paulino Corleoni, Tiziano Bonini e a Miriam Lucchetti. Grazie soprattutto a Corrado, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Allora, sono Giulio, vivo a Modena, la storia di domani è la mia e parla di 6 momenti sociali della mia vita con Jennifer. Questa è la mia storia e io sono qui.